Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Torniamo sul tema della Commissione europea perché se ne discute molto, ma per ora non si sa ancora come sarà formata questa Commissione e soprattutto chi sarà il Presidente della Commissione. E allora cominciamo da El País, che ha pubblicato un'interessante analisi intitolata Come uscire dall'impasse Juncker, perché sapete che alla vigilia delle elezioni e anche subito dopo delle elezioni europee del 24 maggio sembrava quasi certa la scelta di Jean-Claude Juncker come Presidente della Commissione Europea, rappresentante del Partito Popolare, comunque il partito principale del Parlamento Europeo, ma si è cominciato a dubitare sul fatto che potesse essere la scelta giusta Juncker alla luce soprattutto del voto degli euroscettici venuto fuori dalle urne. E quindi El País scrive appunto in un articolo precedente raccontavamo di come il primo ministro britannico David Cameron stesse tentando di impedire la nomina da parte del Consiglio europeo del lussemburghese Jean-Claude Juncker quale prossimo presidente della Commissione. Cameron, scrive El País, sembra non aver imparato nulla. Nel dicembre 2011 aveva minacciato di bloccare il Fiscal Compact che i Paesi membri dell'Unione Europea stavano negoziando se il Regno Unito non avesse ottenuto una serie di concessioni. Risultato? La maggior parte dei Paesi hanno deciso di ignorarlo e di continuare, firmando il trattato al di fuori dell'ambito delle istituzioni europee, cioè come un accordo intergovernativo, evitando la possibilità di un veto britannico. Ecco, è chiaro che, aggiungo io, non sarà così semplice in questo caso. La decisione della candidato della Commissione europea non ammetterà scorciatoie di questo genere, però in effetti porre dei veti come ha fatto David Cameron, irritando tra l'altro particolarmente Angela Merkel, forse non è la strada giusta. Allora vi leggo le ultime righe di questo articolo di El País che trovate in versione integrale su Press Europe, sapete il sito che era stato oscurato per mancanza di fondi qualche mese fa e che ora è tornato ed è sicuramente una grandissima fonte di notizie per tutti noi che cerchiamo di avere un occhio di riguardo per l'Europa. Scrive El País: quel che si può fare è dire che è giunta l'ora della democrazia in Europa e di tornare alle vecchie abitudini, perché se l'intero processo elettorale sfocia nell'elezione consensuale di Juncker con il consenso dei socialisti, sarebbe un disastro. Immaginate i socialisti spagnoli votare il candidato di Angela Merkel? Credo che mai più un elettore socialista andrà a votare alle europee. Ma vediamo allora, visto che abbiamo parlato di David Cameron, la versione un po' britannica della questione. Perciò un articolo apparso su Times intitolato La nuova battaglia per l'Europa. Times scrive: il candidato dato favorito per la presidenza della Commissione europea si è scagliato contro il Regno Unito, un segno della crescente tensione tra Downing Street e Bruxelles a proposito dell'incarico. Jean-Claude Juncker, che lo ricordiamo ancora oggi, è il candidato più probabile alla Presidente della Commissione, con tutti i dubbi del caso però come abbiamo detto, è un arcifederalista la cui nomina potrebbe riempire d'orrore il primo ministro Cameron, ha dichiarato proprio durante il vertice G7 di Bruxelles dello scorso 5 giugno, e dove è apparso chiaro che in questo momento è Londra il principale oppositore alla nomina di Juncker. Juncker sta cercando, scrive ancora Times, consensi tra i leader dei 28 paesi dopo che il suo partito i popolari europei hanno ottenuto la maggioranza relativa, l'abbiamo spiegato prima, ai seggi del Parlamento europeo nelle ultime elezioni. Ma a proposito di Europa e di riforme necessarie, di cambiamenti necessari, addirittura appunto El País diceva che bisogna tornare alla democrazia, con un po' un'esagerazione se vogliamo, non è per fortuna democrazia, ce n'è tante in Europa, soprattutto rispetto a tantissimi altri paesi e zone del mondo. Vediamo allora un articolo di La Croix, un quotidiano belga, che si intitola Come riformare Schengen. Schengen, sapete, è quel trattato per la libera circolazione delle merci e delle persone. Il quotidiano scrive: l'arrivo di numerosi rifugiati in Europa, perché ricordiamolo anche qui ancora una volta, l'Italia con le sue coste lunghissime e la sua vicinanza all'Africa è sicuramente tra i paesi più esposti all'immigrazione, specie in questa stagione, ma l'immigrazione clandestina e non è un problema per tanti paesi e quindi è un problema anche europeo. L'arrivo di numerosi rifugiati in Europa, dicevamo, in seguito agli sconvolgimenti in Nord Africa e la guerra civile in Siria, ha rilanciato il dibattito sulla libera circolazione tra i 26 paesi membri dello spazio Schengen. Schengen, secondo appunto Le Croix. Dopo il caso Medine Mush, che è, lo ricordiamo, il presunto autore della strage al museo ebraico di Bruxelles proprio nel giorno delle elezioni, il 24 maggio, gli europei si sono ora confrontati con un altro problema, a quello dello scambio di intelligence all'interno dello spazio Schengen. Ormai condiviso da quasi tutta la classe politica, la necessità di rafforzare le frontiere esterne dell'Unione ha portato però risposte diverse a seconda degli schieramenti. Quindi ormai non solo libera circolazione delle persone, delle merci, ma anche delle informazioni. E sappiamo quanto questo tema dello spionaggio abbia irritato anche alcuni leader europei, perché soprattutto al di là dello scambio di informazioni all'interno dell'Unione, c'è poi con la complicità, diciamo, delle aziende che hanno ormai un respiro globale, con la complicità quindi delle aziende americane, c'è un problema di spionaggio di intelligence tra naturalmente paesi dell'Unione Europea e Stati Uniti, come ha dimostrato tutta la vicenda di Edward Snowden. Ma a proposito di immigrazione e diciamo di pericoli, anche che alcuni sono veri, altri sono solo presunti, Le Figaro, che lo ricordiamo è un quotidiano di destra con posizioni a volte anche molto dure sull'immigrazione specie dai paesi arabi, ha pubblicato un articolo in cui ci si concentra sul pericolo che Al-Qaeda, e abbiamo visto come negli ultimi giorni Al-Qaeda si è risvegliata anche in Afghanistan, ne ha parlato diffusamente per esempio Alessandro Milan, mi ha molto colpito durante la sua trasmissione del mattino giovedì, 2 giorni fa, il risveglio di Al-Qaeda. Le Figaro spiega che giovani individui che potremmo chiamare jihadisti europei, tra i quali ci sono anche cittadini francesi ma anche cittadini di molti altri paesi, forse anche italiani, sono addestrati dai quadri di Al-Qaeda per compiere attentati in Europa. È un allarme di questa minaccia jihadista che è stato rilanciato appunto sulle Figaro da Luc Garnier, che è il coordinatore della lotta antiterrorismo in Francia. Secondo Garnier questi giovani vengono selezionati in base a criteri anche linguistici, alla possibilità che hanno di confondersi con gli occidentali e a colpire al momento opportuno con tutta la determinazione necessaria, apprendendo le tecniche di fabbricazione di bombe artigianali, l'arte della dissimulazione e ad avere il sangue freddo necessario a compiere un attentato suicida. Garnier, scrive ancora Le Figaro, non ama il termine lupo solitario per parlare di casi come quello di Mohamed Merah, che 2 anni fa assassinò 7 persone a Tolosa, o appunto quello di Mehdi Nemush, di cui abbiamo appena parlato, che è il presunto responsabile dell'attentato al museo ebraico di Bruxelles. Il termine lupo solitario, ha spiegato Garnier a Le Figaro, contiene una traccia di romanticismo totalmente fuori luogo quando si parla di terroristi. Preferisco parlare di attori isolati, non per forza usciti dal territorio, che sognano di poter colpire quando e dove vogliono. A proposito di Francia, o meglio restando in Francia, ho trovato un articolo interessante su Le Monde che ci fa capire come forse anche in Italia dovremmo guardare con attenzione ai dati sulla disoccupazione, sulla scarsa fiducia che hanno i giovani italiani nel futuro, però dovremmo anche confrontarci forse con altri paesi, perché mi ricordo un sondaggio anche di qualche mese fa, il livello di pessimismo e di sfiducia nel futuro in Francia è comunque ancora più diffuso che da noi, non che sia una consolazione, però insomma fa capire che come al solito forse non dobbiamo troppo sempre massacrarci o comunque cercare di guardare i dati negativi, ma anche vedere, credere nella capacità città di ripresa. Scrive quindi Le Monde: la Francia è la maglia nera per le ineguaglianze tra generazioni. Secondo un controverso studio del sociologo Louis Chauvel, messo in grande evidenza sulla prima pagina del quotidiano Le Monde di questa settimana, il sacrificio dei giovani è molto più marcato in Francia che in tutti gli altri paesi sviluppati ed europei. Il sociologo, che lavora all'Università del Lussemburgo, spiega che in 30 anni il livello di vita dei trentenni è crollato del 17% rispetto a quello delle generazioni più anziane e anche quindi più protette. C'è da dire, e Le Monde con onestà lo sottolinea, che ci sono anche altri studi, che altri accademici contestano il lavoro di Chauvel, anche perché in Francia, come in Italia, molti giovani, è vero, hanno un livello sulla carta di entrate economiche più basso, però ricevono anche maggiori aiuti dalle famiglie. Un'ultima notizia, una curiosità su Financial Times, che riguarda tutta l'Europa: la Coca-Cola lancerà negli Stati Uniti, lancerà nell'Unione Europea, partendo dalla Gran Bretagna, una bibita che avrà avrà solo dolcificanti naturali. Siamo un po' avanti in questo, infatti rispetto ad altri paesi non ci piacciono già più, scrive Financial Times, dolcificanti troppo sintetici come il famosissimo aspartame, ed ecco allora che la Coca-Cola ha deciso, multinazionale americana, ha deciso di accontentare quelle che secondo loro sono le esigenze dei consumatori europei e lanciare questa Coca-Cola sempre a calorie zero, ma con un dolcificante a totale base naturale, con una pianta che cresce soprattutto in Sud America. Era l'ultima notizia che sono riuscita a darvi, vi auguro un ottimo sabato e vi do appuntamento a settimana prossima. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.